cambierò i miei pezzi oggi. Come potete vedere, non sono italiana. Chi non lo sa può indovinare, ma non è molto difficile. Però canterò in spagnolo i miei pezzi, ma ci sarà magari qualche cosina in italiano lì, magari, chi lo sa. Spero che vi piaccia, che vi sentite tranquilli, rilassati, divertitevi. Vediamo come va, dai. Sin despegar su pico levantaron vuelo en espejo, subiendo, flotando, grazie. Grazie mille. Che bello applauso. Bueno, vi racconto un pochettino di cosa parlava quella canzone. Ah, che bello la ma cosa sta dicendo questa tizia che sta cantando? Vabbè, questa canzone raccontava la storia di due uccellini che una volta erano in un parco in Buenos Aires, da sola, poco tempo prima di partire in Europa, poco dopo di arrivare, come sempre. Quindi sono arrivati questi due uccellini e hanno fatto una cosa meravigliosa. Si sono messi davanti a me, come raccontavo nella canzone, e hanno fatto davvero una danza. Come si chiama? Vesco? Becco, il becco. Cioè che in spagnolo è il pico, no? E quindi becco con becco. Cioè hanno fatto tutta una danza davanti a me, è stato bellissimo, ero così, in un momento, ciup, ciao, ognuno un alberino, ah, così è la vita, per me è stato significativo. Ho detto, vabbè, questa è una canzone, ho scritto una piccolissima poesia che di cui è nata questa canzone che ho cantato prima, che si chiama Vuelo en espejo. Che cosa vuol dire? Vuelo en espejo. Ah, perfetto, grande. Beh, invece di eso, tanto una canzone che sarà come un racconto un po' della mia vita nell'ultimo tempo, no? Dico perché, cioè questa canzone si chiama Incomodidad, Ascomodità. Sì, l'ho scritto qua, quando sono arrivata. C'era una cosa che io ero scomoda, e quindi ho detto, invece di essere tutto il tempo incomoda, scomoda, li canto alla incomodità. Quindi lì abbiamo fatto una canzone divertente. Quello è il metronomo, eh? Vediamo che passa un pochettino. Ok, grazie. Viene la mia famiglia argentina in quel treno lì, stiamo aspettando. Ok, siamo tutti i treni insieme. Grazie. espectacular, espectacular. Come? Faccio freddo, ragazzi, faceva freddo, faceva un freddo, non c'è il sole, ma dove c'è? No, Cande, qua in Europa a volte non c'è il sole in inverno, ma come? Così, ma dopo mi sono abituata, è un po'... cioè, cambio. Dopo inizierò a essere così. Inizio in un periodo... No, va, il primo inverno è passato. Ma... bene. Contemplare. Una canzone da un balcone. Vediamo. Sento come a casa in questo momento, sto provando delle cose, improvvisando un poco, cantando un po' delle cose che già ci sono, e così mi diverto con voi un pochettino. E, sto facendo, fino adesso ho fatto tutte canzoni nuove. Cosa vuol dire che sono nuove? Per me non tanto, per voi magari per qualcuno sì, però lo dico perché ho fatto un album l'anno scorso a Buenos Aires, in cui ancora non ho cantato nessuna canzone in questo momento, di cui si chiama Danzando in Me, c'è qua di fianco a me, e dopo possiamo parlare se qualcuno è interessato, se no lo potete trovare anche nelle reti, bla bla bla. Quindi sentivo che era giusto anche condividere le cose nuove, delle cose che mi rappresentano ancora di più in questo periodo, delle cose composte qua, e quindi arriverà di più ancora sicuramente l'energia. E niente, perché così potete sentire un po' di tutto. Dopo quello ho registrato ancora, bla bla bla, però qualcuna canzone suonerò. Intanto adesso suona una che si chiama Entrelazándonos, che è nuova, però c'è un videocito chiquitito. Qua dicono bello. Seguimos entrelazando. Grazie. Blanca, come stai? Bene? Mai a tempo, Blanca, da quando ci conosciamo, mai a tempo. Spontaneo. Io, quelli che l'hanno già ascoltato anche la spiegazione, mi spiace, ma Devo raccontare un po', perché se no gli altri non capiscono niente, de parte un po' del cantare in spagnolo, parlare in italiano, vivere in Italia, vabbè. Questa canzone si chiama Lo Spontaneo, nasce da un corso di composizione che abbiamo fatto tra amici in Argentina online, nella quarantena, è stato proprio bellissimo. Praticamente in questo corso dovevamo comporre una canzone ogni 6 giorni con una proposta di una tematica e dopo condividere con degli altri, parlare su questa canzone, bla bla bla bla bla. E questa tematica è stata l'elettricità. Io ho detto, vabbè, da tutto quello che hanno parlato, ci ha parlato una persona che sapeva, no, dell'elettricità sul serio, da tutto quello che mi è arrivato io ho preso una cosa che per me sono i vincoli umani, no? Quindi ho parlato dell'elettricità tra le persone, non in un senso amoroso, passionale, se no in generale, no? Cioè quando c'è qualcosa lì dall'altra parte è come alla fine siamo sempre dentro una rete che tutto si collega. Quindi questa canzone parla un po' di questo. Aquí no hay nada planeado, ni lo llamo algo casual. Hay un impulso acelerado. Siempre ahí. Caminantes que se encuentran mirando para otro lado y al mirarse simplemente se pone en juego lo espontáneo del vivir. De emociones que no puede comprender. Come va dall'altra parte? Come si sente tutto? Bene, vedo dei sorrisi. Come cazzo si dice? Come si dice la sonrisa? I sorrisi. Vabbè. Io non posso guardare a Blanca, non so come mai, ma non posso guardarla, cioè mi viene da ridere ogni volta che la guardo. Sì, viene. Bene, questa canzone si chiama invece Seres de la Tierra. L'ho detto veloce così nessuno lo capisce. Cosa vuol dire Seres de la Tierra? Ah, ma che incredibile, Sara. Vabbè. Gli esseri della terra, sì, essere della terra. Cosa vuol dire per voi essere della terra? Cioè, cosa vuol dire per te essere della terra? Dai, colombiano, non mi fai finta di non capire niente. Cosa vuol dire per te essere della terra? Boh, essere del computer. Dai, una piccola risposta. Cosa vuol dire per te? Bancazzo, sì! Chi altro vuole condividere qualcosa su questo? Piccolino, no? Per me vuol dire questo. Qualcuno vuole dire qualcosa? No? Nessuno? Nessuno della terra, guarda! Siete venuti dal cielo, vabbè. Nessuno? Cosa vuol dire per voi essere della terra? Cioè, ci sono tantissime risposte. Fabio? Cosa vuol dire per te essere della terra? Far parte della terra, certo, è molto giusto anche questo. Possono essere... Sì, sì, sì, certo. Cioè, vi avvicinerete tutti perché la terra è una sola, quindi cioè, tutte le risposte sono valide, no? Come? Anche? A volte è bello, volare però, non c'è tanto. Grazie Fabio. Gabri, per te? Sì, così, cortito. Sì. Bravo, ok. Qualcuno in più che vuole dire qualcosa? Infatti. Anche questo vuol dire essere della terra, cioè dai, collegarci, bellissimo. Grazie. Grande, no. Bene, allora, vi parlavo prima del corso di composizione dove c'era questa dell'elettricità, è nata lo spontaneo. Qua invece la tematica era il compost, cioè lo compostabile. E quindi c'è stato tutto questo del costo del compost, abbiamo parlato del mantillo, il mantillo, che è come questa cosa delle foglie, no? Che copre gli alberi per proteggerli nell'inverno, come dopo tutto rinasce, come abbiamo bisogno delle cose che si biodegradano per... cioè continuare il ciclo della vita, no? È una candeliada anche questa, perché ho detto, ah sì, il mantiglio, quello che ho fatto io nell'inverno, e vabbè, composto una canzone che si chiama Seres della Terra. Vediamo come esce dopo di questo treno, però parla un po' di questo, di tornare, cioè ragazzi, torneremo tutti qua, anche c'è un'altra parte ovviamente molto importante, però... cioè, rendiamoci conto che siamo parte di questa terra, come diceva Johnny l'altro giorno, presente la Pachamama nelle tue parole, sì, certo. Thank you. ritmo de un latido transformándose, melodías olvidadas en el fondo del cajón, retazos de canciones en lo oscuro del corazón. Sé Grazie, Giorgio, possiamo tornare alla normalità. Che bella, ci abbiamo fatto una chiacchierata in argentino oggi con i ragazzi qua. Un po' di spagnolo, è stato molto bello. Vai. Ok, allora, sta arrivando alla fine? Sì? Ok. Poco, con calma. Questa canzone non voglio farla, quella che ho letto ahí, quindi mi sto facendo la che mi distraggo e vado con l'altra. Vabbè, faccio una canzone in italiano. Perché? Una canzone mia. Qualcuno l'ha conosciuto, già l'ha sentito. A me fa una vergogna terribile perché ho paura di sbagliare, ma qua mi sento veramente tranquilla e se sbaglio va benissimo per me, quindi spero che anche per voi. Questa, ancora di questo corso di composizione, cioè questa parte era il linguaggio. Quindi dovevamo comporre in un'altra lingua. Ho detto, ah, cazzo, questa non posso andare via, quindi devo comporre in italiano al momento giusto. E ho parlato giusto su questa cosa. Non vi dico niente perché questa la capite. Vabbè. Questa volta raccontare di me, ma ormai sono già pronta per parlare con te. Ora che non insisto a cambiare quello che non potrei trasformare. Davvero ho fatto fatica ad accettare che una doppia consonante cambi completamente il significato di una parola. E che se dicevo casa invece di casa, era assurdo. Mi chiedevo, ma così tanto? Per me tutto era rigido. E sì, faceva freddo, mi sentivo strana e più di tante parole. Avevo proprio bisogno di un abbraccio e soprattutto di capire che se continuavo a fissarmi su quelle cose, la rigida ero io. Permesso le canzoni corte in questo periodo, beh, questo perché devo farla più lunga, devo dire quello e basta, ciao. Finita. Grazie. Allora sì, vado con una canzone invece di questo album che è qui con me, che si chiama Danzando a me, per cui faccio anche quella canzone. Sì, per chiudere questa serata. Quindi spero che vi siete sentiti bene. Io sono molto contenta di suonare la Cicorficina di Camere d'Aria, quindi vi ringrazio per avermi invitato, sono molto felice, è molto bello. Prima che inizi il freddo possiamo essere qui tranquillissimi, quindi a goderci questo periodo, a vederci tantissimo. Cosa devo fare? Una firma addirittura! Ah! Non farò una firma, le scrivo una cosina, firmare è terribile. Fare una firma che mi sento che sto firmando un documento, prefiero scrivere una cosa. Danzando in me, allora. Io mi fermo un attimino prima di cantare questa canzone perché mi rendo conto ancora che non capite quello che dico, quindi mi piacerebbe condividere questa ultima storietta. Nel 2015 mi sono andata da casa, mi sono andata con lo zaino, sono stata 3 anni fuori viaggiando con la chitarra e lo zainetto per Latinoamerica. È stata una delle esperienze più belle del mondo, per me ovviamente. E non è facile tornare a casa dopo tanto tempo, cioè vedere il tuo posto e tu sei completamente un'altra persona. Quindi per me tornare a Buenos Aires, che è un mostro proprio, no? Molto molto grande, succedono tante cose belle e non tanto belle, essere lì è stato proprio un momento particolare della mia vita. Quindi ho scritto questa canzone che parla un po' di questo incontro con la mia città e con me stessa dentro di quella città. Basta, non comincio. Che si senta da un'altra parte. Emerge ante mí. silente, aterrador, profundo, tentador e inmenso es. Aún queda mucho que aprender, tolerar sin permitir, no confundan con cumplir, escuchar y recibir. Mi verdad no muere aquí. Qué lindo, un poco me avergoña. Grazie, qué bello. Dice lei. Hija de su madre, chilena, tremendo. Vabbè. Allora va, faccio un'altra, l'ultima, però con una condizione. Una más, però dovete condividere con me un pochettino del vostro corpo musicale. Cosa vuol dire questo? Chi se la sente può fare la percussione, non mi mettere fretta, non fa, no, che io devo andare, cioè, con me. E chi se la sente mi può accompagnare cantando, perché ormai qualcuno di voi già la conosce e l'ha cantato e non è molto difficile, è molto facile. Chi la sa, si la racconta quello di fianco, la vuol dire, Gabriele sta... La sola. Non c'è mai. Allora, io non so di fianco, la mascherina, sì, chico. Cosa c'è, l'album? Il mio album, Danzando a Missy, l'ho detto 30 volte. Ci sono anche i flyer delle lezioni di canto e bla bla bla, dopo, vabbè. Allora, ripetete con me che questo gioco mi piace un sacco e voi già lo conoscete, quello che lo sa, basta. Soy todo lo que soy ahora. Soy este instante que se transforma. Hai visto? Sono incredibili, wow ragazzi, bravo. Va. Cioè, questo qua suona, no? Va? C'è qualcuno? Due, ci sono due. Y puoi ballare e fare così, guarda. Con los paisajes, con los recuerdos. ideas de cada libro que pude leer. Vivo bordando sueño, voy descubriendo y honrando el viaje de mis abuelos. Se transforma. Soy todo lo que soy ahora. Soy este instante que se transforma. ¡Bravísimi! Las injusticias que el mundo muestra en su día a día y tanta gente no quiere ver. Sonrío con los abrazos, con la simpleza, con la mirada que están despierta y con los niños que en la plaza juegan. Canto por la alegría, por la empatía y la armonía en esta vida. ¡Epa! Se transforma. ¡Pío fuerte! Soy todo lo que soy ahora. Soy este instante que se transforma. ¡Ancora! Soy todo lo que soy ahora. Soy este instante que se transforma. Y debemos transformar. Soy todo lo que soy ahora. Soy este instante que se transforma. Soy todo lo que soy ahora. Soy este instante que se transforma. Grazie ragazzi, bellissimo! Dopo questo... Davvero? Siete carichi? Ok. Vabbè, magari si annoiano con le canzoni spagnole, è grande. Allora, cioè, vabbè, facciamo un'ultima del genere, Ruta Dentro, che ancora è danzando in me. È ancora un stile tipo guaino cumbia, che come questo che avete sentito, che è molto andino. È la prima canzone dell'album, quella lì, parla dell'inizio di questo viaggio, quindi ve la cantiamo. Ruta Adentro. Vabbè, facciamo più o meno lo stesso. Ma dovete ballare. Es la historia de aquel que un viaje quiso emprender por la ruta del interior. Se fue con orgullo y con valor, a los miedos se enfrentó, a los chismes se esquivó y sanando comenzó. Recordó aquello que borró por obra de un gran señor que todo lo controló. En el camino admiró, asombrándose otra vez, de los árboles crecer, de las flores renacer. Vio a los pájaros volar, algún que otro pez saltar. Se encontró con vacas, perros, ni mascota ni alimento. Se encontró un sabio que escuchó hablar de la luna y el sol. Y así sus acuerdos fue cambiando, con franqueza caminando a esta nueva percepción. Y en el abismo fue creando este mundo, disfrutando con entrega y compasión. Sí. Ah, ah. Sin pensarlo se encontró con la esencia que ocultó tras los años, sumergida en un papel que interpretó, siendo auténtica entendió lo que la vida le dio, lo que puede hacer ahora y mañana quizá no. Conoció hermano que abrazó, dando paso al amor, olvidando el reloj. La primavera la alcanzó, entregándole esta vez los deseos que día a día fue sembrando para crecer. El abrazo de un hogar, gente con quien brillar más, era el tiempo y el lugar para escucharse y sanar. Se encontró con sabios que escuchó hablar de la luna y el sol. Caminando a esa nueva percepción, y en el abismo fue creando este mundo, disfrutando con entrega y compasión. Basta, ragazzi, adesso vado a bermi una birra. Comprate tutti gli album, mettete molto soldi nelle taschine, basta di goderci tutti una birra. Grazie Camere d'Aria, grazie a tutti voi, sono molto felice, grazie. Señores, señores, diamo adesso sì un forte, perché ancora non lo sentite, un forte applauso alla signorita Cande Marcinotto. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. E vogliamo ringraziare tanto il fatto di venire così con questa bella predisposizione a portare a questa rimessa in moto di questi spazi, no? Dopo, così manteniamo così. E niente, vogliamo ricordare, lei ha lì un borsellino bellissimo che ha disegnato anche oggi tutto. E niente, con un album delle canzoni bellissime, si vogliamo portare, ho visto che sta a solo 5 eurini, quindi penso che una bella medicina per la sua casa. Abbiamo la prima comandante, forte l'applauso, forte l'applauso, forte l'applauso! Avanti, avanti, avanti! Che spettacolare, che spettacolare! Questo è un spettacolo, mamma mia! E niente... Se non avete per riprodurre il CD, volete lasciarle un'offerta lì, anche è bello, e la potete trovare su Spotify a Candy, ok? Perfetto. E a voi ragazzi, amici, esatto, il secondo, forte l'applauso! Oltre a tutta questa carina festa, vogliamo informarle che il prossimo giovedì nel ciclo concerti sarà Marco e il suo compagno di Mamma Ragù, Roots Reggae, prossimo giovedì alla Ciclo Concerti, Adesso continuate a aggiustare i freni, ragazzi, dai. Andiamo, andiamo, andiamo.